Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. E riparte dunque anche il nostro appuntamento settimanale con il mondo della scuola. Mirko Cavallini studio e Didaici in regia. Dopo lo spazio che abbiamo dedicato con molte interviste la settimana scorsa per introdurci al tema, riprendiamo nello spazio consueto e ormai consolidato da moltissimi anni. Ben ritrovato Don Edmondo Lanciarotta. Un grazie a voi tutti che ci ascoltate e ben trovati tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Don Edmondo, delegato della Conferenza Episcopale Triveneta per il settore scuola, educazione e università. Nel contatto che abbiamo avuto con Monsignor Tessarollo la settimana scorsa ci ha anticipato già alcune date che tu stesso però già a fine dello scorso anno avevi anticipato, e proprio tra poche settimane, il 13 ottobre, a livello di Conferenza Episcopale Triveneta c'è già una prima tappa. Sì, una prima tappa a livello regionale che prosegue il laboratorio a livello nazionale che si è avviato il 3 e 4 maggio scorso a Roma sul titolo appunto La Chiesa per la Scuola, ed è stato il coinvolgimento della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che promuove una riflessione a livello nazionale coinvolgendo non solamente gli addetti ai lavori nell'ambito della scuola ma anche tutto il mondo della famiglia, tutto il mondo giovanile, tutto il mondo anche impegnato negli RC a scuola, ecco questi, e per non parlare poi del mondo del lavoro in riferimento alla formazione professionale, ecco una riflessione per creare le condizioni affinché a livello nazionale si discuta, si parli, si creino momenti di discernimento per porre al centro dell'attenzione la scuola, e con la scuola noi vogliamo dire tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, che in questi ultimi decenni, ecco, causa sia la crisi economica sia anche le contrapposizioni politiche e ideologiche e i blocchi hanno paralizzato la riflessione. Allora la Chiesa con la Presidenza italiana dei Vescovi rilancia questo, e a livello nostro del Triveneto il 13 di ottobre c'è una giornata di studio che rilancia appunto queste tematiche per produrre un vocabolario educativo pedagogico, per creare quelle condizioni affinché si realizzino quelle alleanze educative fondamentali per rilanciare l'educazione, perché dalla emergenza educativa, così molti spesso no, in questi ultimi mesi, in questo decennio dell'educazione ribadiscono emergenza educativa, a un'emergenza positiva, cioè far emergere ciò che è positivo, ecco, nella azione quotidiana che è quella dell'educazione, chiamando innanzitutto la famiglia e poi l'istituzione scuola e poi la parrocchia e poi diciamo tutte le altre agenzie. Questo incontro, questo convegno, ecco, tutta una giornata di lavoro sarà caratterizzato dai lavori di studio su alcune aree tematiche e poi un tentativo di realizzare positive esperienze, uno scambio di buone prassi e individuando se queste buone prassi possono dare anche un progetto concreto in cui le comunità cristiane promuovono, appunto come il titolo ci dice, La Chiesa per la Scuola, promuovono un'azione affinché i fedeli cristiani laici si impegnino realmente nella scuola. A chi è rivolto questo incontro? Quali sono gli invitati? Allora, è rivolto in maniera particolare a tutti quelli che hanno a cuore le problematiche educative, a quelli che lavorano in prima linea nella famiglia, a quelli che lavorano nella scuola, a quelli che lavorano nei centri di formazione professionale, al mondo giovanile, ai responsabili del mondo giovanile, perché insieme da più parti, ecco, si possa, ecco, focalizzare la scuola come istituzione deputata alla, non solamente alla trasmissione dei saperi ma anche a una elaborazione critica del sapere, ecco, e questa scuola in dialogo con le altre realtà. E sono invitati poi ad introdurre i lavori di studio alcuni esponenti del mondo sindacale, alcuni esponenti del mondo della scuola, ecco, i dirigenti, i responsabili anche regionali, alcuni direttori, ecco, e alcuni presidi, per non parlare poi dei responsabili provinciali e regionali delle aggregazioni delle cattoliche impegnate nel mondo della scuola. È un dialogo appunto che continua, ma ti lancio subito una provocazione. Sì. Sono anni che anche in questa rubrica ribadiamo gli stessi concetti. C'è stato qualche passo avanti nel dialogo? Oppure ci sono ancora le contrapposizioni di cui sappiamo? Ci sono ancora contrapposizioni. Poi possiamo dire che la scuola non è amata. Tante volte abbiamo detto che manca la cultura della scuola. Ecco, noi pensiamo che bastino le riforme della scuola No. Anche la più bella riforma che il Parlamento riesce a emanare, se non ci sono le persone che la portano avanti, resta lettera morta. E anche oggi, con la crisi economica e che non ci sono più i soldi, e quindi con le paure appunto dei tagli, ecco, questo può offrire il fianco a una deresponsabilizzazione. E quindi poi succede che della scuola se ne parli solamente quando capitano gli scandali, eccetera. Quindi possiamo dire che la scuola non è amata, e poi non vive del clamore e dello straordinario. La scuola vive dell'ordinario, del feriale, del quotidiano. E quindi su questo aspetto qui noi operiamo non perché abbiamo dei frutti, ma operiamo, ecco, sempre di più in nome anche come Chiesa, ecco, in nome del Vangelo, e quindi con la categoria del seme, con la categoria del segno. E con i tempi del contadino. Con i tempi del contadino. E cioè, se un tempo si vuole vedere i frutti, ecco, no, forse bisogna seminare. E per certi aspetti, ecco, noi ci troviamo in situazioni in cui neanche la semina ci è offerta, ma forse l'arare. Quindi ancora prima della semina. Perché i tempi non sono positivi su questo aspetto qui, però la speranza, che il Papa ci dice è la fondamentale categoria, oltre che virtù teologale, dell'educazione, non ci viene a mancare. Prima pausa e poi torniamo insieme per questa prima puntata stagionale. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Tutta la passione che ci è rimasta addosso, come faccio a sopportare ogni domani, domattina, e come faccio adesso? Dopo tutte le carezze che sono rimaste sole, come faccio a sopportare un'altra mano, altri occhi, un altro odore? Dopo tutta la poesia che mi porta lontano, ma come faccio a sopportare un'altra donna al posto tuo? Ancora mi fa strano. Dopo tutti quei silenzi, esasperati e stanchi, come faccio a non cercare in ogni storia un po' di te? Ed ecco che mi manchi. Dopo tutte le promesse di rimanere amici, oggi so cosa fa male più di tutto, più di te, le cose che non dici. Dopo tutte le pazzie, oggi mi sento solo, ma come posso allontanare l'illusione che noi due riprenderemo il volo? Al mare e dirti tutte quelle cose che non ho saputo mai dividere e capire. Un anno se ne va, ancora qui ad urlare, ma come ho fatto a non capire che oramai non si può più prendere o lasciare. dal mondo della scuola. Programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa prima puntata stagionale dal mondo della scuola con Don Edmondo Lanciarotta, ci stiamo reintroducendo a un percorso che sarà molto lungo, che è già stato pianificato, anzi ringraziamo tutti coloro che si alterneranno, che nella commissione insomma lavorano, so che già nel corso dell'estate vi siete riuniti. Abbiamo già anticipato i contenuti dell'incontro del prossimo 13 ottobre. Lo facciamo a Zellarino. Ecco, al Centro Cardinale Urbani, incontro proprio sulla Chiesa per la scuola, come è già stato promosso a livello nazionale lo scorso maggio. Andando più avanti nel calendario, c'è un altro appuntamento che già i nostri fedeli ascoltatori avevano magari segnato in agenda: domenica 24 novembre. Cosa succederà? Questa domenica, da alcuni anni, la Conferenza Episcopale la dedica anche alla scuola della comunità, per rilanciare la bellezza e la fecondità della scuola, tutta la scuola che è una parte della comunità e che è comunità dentro la comunità umana. E in quest'anno però ci sono anche delle responsabilità politiche. Ora, questa domenica viene anche riservata ad approfondire il dialogo con, diciamo, la politica locale, la politica regionale e la politica anche nazionale. E quindi l'ANCI, ecco, e poi il mondo del sindacato, e poi gli uffici scolastici regionali, ma poi in maniera particolare la regione e il governo italiano. Questa domenica cade quest'anno, ecco, in due appuntamenti molto importanti. La conclusione di Job Orienta. Ogni anno a Verona c'è il Job Orienta, quindi tutto un convegno, una manifestazione ricca di incontri per offrire ai giovani l'orientamento e anche la presenza nel mondo del lavoro e la scuola nel lavoro. E poi abbiamo il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che di solito veniva fatto in settembre, sempre a Verona, invece quest'anno, con la coincidenza della Settimana Sociale dei Cristiani a Torino, è stato spostato a novembre. Quindi, e il tema di questo Festival della Dottrina Sociale della Chiesa è appunto, il tema principale, la scuola. Quindi una scuola come un capitolo della dottrina sociale. Bene. A conclusione, altre due cose: conclusione dell'anno della fede, il 24 novembre, e conclusione dell'anno liturgico. Abbiamo un quadro completo. Allora, in questa domenica, ecco, viene riservata la conclusione di questi due percorsi della scuola e alla presenza del Patriarca di Venezia, che è anche presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto. Ecco, viene posto in maniera autorevole tutta la questione della scuola, valorizzando il patrimonio del Veneto, del Triveneto, valorizzando e rilanciando il modello veneto, che rischia di essere scardinato se non c'è una attenzione anche locale, politica, e offrendo alla nazione tutta, allo Stato italiano, al governo, a chi sarà presente, ecco, la positività di una riflessione e l'urgenza di tener conto che se nel nord ci sono delle questioni, non sono questioni parziali, non sono questioni locali, non sono questioni di parte, ma sono questioni prettamente nazionali e per il bene di tutti. Perché in questi ultimi mesi c'è il rischio di localizzare le questioni, perché l'Italia è lunga. Allora c'è una presenza appunto di rilanciare. Secondo, offrire in maniera autorevole la riflessione, quindi continuare quegli incontri che, se coloro che ci stanno ascoltando si ricordano, che abbiamo fatto anche Catron, ecco, in qualche anno fa, dove, ecco, si rilancia a livello nazionale la questione con le norme attuali, quindi rispettando il titolo quinto della Costituzione, rispettando le leggi dell'autonomia, rispettando le leggi della parità, creando le condizioni perché questi diventi un sistema italiano, e quindi offrendo il contributo non solamente di carattere culturale, che viene riservato prevalentemente all'incontro che prima dicevamo, il 13 d'ottobre, ma un carattere anche politico e strategico, per offrire a chi di dovere il contributo a una scelta politica conseguenziale. anche qui ritiriamo fuori un tema già conosciuto, già affrontato. Li hai citati tre livelli: i comuni, la regione, lo Stato. Sono tre livelli evidentemente diversi. I comuni, i sindaci conoscono bene i problemi delle scuole, soprattutto le scuole dell'infanzia, e hanno sempre dimostrato vicinanza anche molto concreta. Più si sale, più questa vicinanza è minore. È questo. Allora noi vogliamo, desideriamo che la questione, ecco, non si disperda, diciamo, a Roma, ma sia accolta allora dai responsabili locali e regionali. Si crea quella alleanza, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, per non disperdere il patrimonio e per contribuire al bene. Facciamo un esempio: se è vero che c'è un risparmio economico grazie al principio della sussidiarietà, perché questo non può essere anche un bene da esportare a livello nazionale? E se è vero questo, perché allora noi non dobbiamo continuare a fare in modo di dire risparmiamo, responsabilizziamo le persone e non de-responsabilizziamo? Perché c'è il rischio di dire che questi qui paghino lo Stato, ma se riusciamo a pagarlo a livello regionale, se riusciamo a pagarlo a livello locale, perché dobbiamo scaricare nello Stato? Che poi lo Stato chi è? Siamo noi. Quindi c'è tutta anche un'azione culturale da promuovere, e il convegno, l'incontro di domenica 24 novembre vuole porre anche questi, perché ci accorgiamo che anche nel nostro territorio, ecco, la stanchezza, la sfiducia, le contrapposizioni rischiano di snaturare quell'impegno che sempre, diciamo, quando c'è un'emergenza ci tiriamo sulle maniche e ognuno dà il proprio contributo. Ecco, questo nostro contributo in relazione al mondo della scuola non è così evidente. È un'emergenza drammatica questa, perché ne va del futuro delle giovani generazioni. Allora noi vogliamo fare della dottrina sociale, non presentare gli ideali, puramente gli ideali, ma dimostrare che questi sono storia che ha creato una società, quella veneta, e nell'ambito della scuola, le scuole dell'infanzia, le scuole, noi non vogliamo che sia smantellata. Domenica 24 novembre, ma torneremo certamente a parlarne. Un'ultima pausa e poi ancora insieme. Dal mondo della scuola. Maddie. Ultima parte di questa prima puntata dal mondo della scuola. Abbiamo citato prima l'appuntamento del 24 novembre, non abbiamo detto dove, sarà a Verona sulla scuola della comunità appuntamento regionale che ricorderemo più volte. Un settore dell'educazione di cui spesso non si parla, ma che è importantissimo anche dal punto di vista economico, è quello della formazione professionale, i CFP. Insomma, molti li conoscono, tanti ragazzi li frequentano, perché poi i numeri stessi dicono che chi va al CFP trova facilmente lavoro. E allora, su questo che iniziative ci sono, Don Edmondo? Poiché anche su questo aspetto sentiamo dei momenti di crisi, anche di disaffezione, allora Forma Veneto con Confap e in collegamento con la Conferenza Episcopale Triveneto nell'ambito della scuola e della formazione, promuoviamo degli incontri, uno standard uguale, fisso, provincia per provincia, in cui cercheremo di presentare i dati positivi come tu prima elencavi. Presentiamo la specificità locale, chiamiamo a questo incontro i responsabili non solamente dei centri di formazione personale ma anche quelli della pastorale e anche il mondo dei genitori, perché può accadere ancora che qualcuno dica: beh, il mio figlio nei centri di formazione personale, no, io voglio mandarlo ai licei. C'è ancora una percezione che lì siano scuole o percorsi di serie B in rapporto al percorso di zona, e invece sono percorsi di qualità, sono percorsi che inseriscono immediatamente il giovani nel mondo del lavoro e hanno anche un futuro molto concreto. Bene, vogliamo presentare questa fecondità e presentare anche la deriva o anche la declinazione di carattere pastorale, e con la presenza del vescovo o del vicario generale, ecco, l'autorevolezza anche di una esperienza ecclesiale. E quindi inizieremo qui, il primo incontro sarà il lunedì 30 di settembre a Vicenza, e poi proseguirà un altro incontro a Verona, e poi per quanto riguarda Treviso sarà all'Epidorocco in dicembre, ecco, e quindi via via tutte quante le altre province dove si cercherà appunto di rilanciare, ecco, la fecondità dei centri di formazione professionale in maniera tale che, ecco, non siano solamente considerati croce rossina della istruzione, ma siano valutati, quotati per quello che sono e per quello che offrono alle giovani generazioni. Un sacerdote nella mia parrocchia, nell'omelia di domenica scorsa, ha detto: non possiamo tutti diventare dottori, perché sennò bisogna che qualcuno faccia anche lavori considerati un po' più umili, ma comunque importanti. E poi questi luoghi, quindi centri di formazione, sono anche luoghi di accoglienza, di integrazione. Tantissimi sono anche ragazzi che provengono da altre culture, da altre nazionalità, e quindi c'è un laboratorio, ecco, di grande dialogo e fecondità anche per il futuro. Gli stessi ragazzi, poi anche ospiti in questi studi, raccontano che non è che si studia meno al CFP, anzi è molto più impegnativo paradossalmente rispetto ad altri percorsi. C'è il sapere delle mani che arricchisce, oltre che il sapere della testa. Arriviamo a un aspetto invece più preciso per quanto riguarda la tua diocesi, che è quella di Treviso, con una serie di iniziative che stanno partendo ovviamente come tante altre. Sì, cerchiamo come sempre di concretizzare indicazioni anche del piano pastorale di cristiani adulti, una chiesa adulta, e riscoprire anche la fecondità del battesimo. All'interno di questa fecondità del battesimo riscoprire, ecco, la testimonianza dei fedeli cristiani laici nel mondo della scuola, e quindi offriamo degli incontri di informazione e di sensibilizzazione a livello dei consigli pastorali parrocchiali, a livello dei consigli pastorali delle collaborazioni e anche a livello vicariale. Offriamo anche occasioni di incontro su questioni educative, su dove va il mondo della scuola. Ecco, importante è che questi incontri, ecco, possano contribuire a risolvere, come si diceva prima, alla mancanza di cultura della scuola che ancora purtroppo è presente, e eventualmente anche a creare quelle sinergie con i vari soggetti delle scuole dell'infanzia, le scuole cattoliche, i centri di formazione, in maniera tale che dentro una comunità cristiana non si vada, ecco, per così ognuno in maniera disordinata, ma in maniera anche ordinata, e offrendo momenti anche di discernimento, convegni che faremo seminari di studio con le categorie impegnate, ecco, nell'ambito della scuola. Abbiamo diffuso, ecco, dei volantini, dei pliang, ecco, informativi, creando quelle condizioni perché ognuno possa dare il proprio contributo. Il prossimo incontro lo faremo qui anche nel mese di ottobre, ecco, in collegamento anche con l'UCIM, e poi in novembre insieme con le altre anche organizzazioni dei laici impegnati nella scuola. 40 secondi per citare, mi è venuto in mente un altro appuntamento di maggio. Abbiamo detto 13 ottobre seminario della Conferenza Episcopale Triveneta, il 24 novembre l'iniziativa regionale a Verona, ma in maggio? In maggio abbiamo la certezza, adesso la presenza della Conferenza Episcopale ha il 10 maggio, una manifestazione della Chiesa italiana sulla scuola per la scuola a Roma, e abbiamo avuto la certezza, la conferma meglio in questi ultimi giorni, della presenza del Papa Francesco che presiederà questo incontro. Di più non sappiamo, l'organizzazione però è un appuntamento importante che vede la Chiesa italiana presentare al Papa la scuola italiana per il bene della civiltà, della società e dello Stato italiano. E verso quella tappa arriveremo anche lungo il nostro percorso settimanale. Grazie Don Edmondo. Grazie a voi tutti, arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.